Accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Tu sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Anche senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri. Pensieri. E percorrendo con me i più oscuri sentieri. You let me down so many times. I forgot the very first. It's time to stop this useless relation. It's no good for both of us. I guess if you keep loving me, or do you love to see me cry? I can't afford this bad situation. Your behavior has to stop. Bella atmosfera. Chi è questo qua? È Gary. Gigi D'Agostino. Bellissimo. I don't remember your last smile, but I remember your first line. It's time to stop this useless relation. There's no reason to go on. I hate to waste my precious time. There is no way to change my mind. You let me down with callous emotions. Your behavior has to stop. Time. I tell you in the crowd, so hurry up and pop and go be selling this and down. Insinuati nel sito www.gigidag.com e una volta dentro troverai l'elenco dei brani. A fianco ad ogni brano c'è il simbolo della cuffietta. Sì, dai. Clicchi e ascolti la canzonetta. Se ti piace, la voti. Se no, vaffanculo. questo è il mio cammino. Si sente? Sì, dai, dai, dai. Vi ricordo che non sono sordo, ma alcune cose a volte le scordo. Se fossi in te, prima passerei un momento da uno psichiatra. Ma vada. Serranda, devo fare la propaganda. È uscito Sun Experiment, il mio nuovo CD. Lo potete trovare in tutti i negozi seri di musica. Sì, dai, dai, dai. Oppure, se non avete voglia di spendere soldi, potete rubarlo su internet, cioè altroni che non siete altri. Purtroppo i soldi sono pochi. Io non predico una strada, ma un mondo pieno di strade, una maggiore conoscenza, una maggiore scioglienza. Una maggiore scioglienza. Grande momento. Bello, bello, bello, bello. Come si chiama? Federico Romanzi. Sì, sì, ma il titolo della canzone. Cielo. Che belle. Festa delle scuole. Discoteca Privilege. Via Torino 80. Località Airasca. Provincia di Torino. Take the ball.

grande momento. Bello, bello, bello, bello. Chi era questo? Che... come si chiama? Tocco Oscuro. Sì, sì, ma il titolo della canzone? Cold Wind. Me lo compro, signore. Bello, bello. Ma finisce questo o gli devo andare di gomito? Mi sai dire per favore chi ha prodotto questo disco? La Tana del Suono. Titolo? Passare dei pomeriggi tristi e lisci. Vota il brano che preferisci. Senti, farò quello che potrò. Vai su www.gigidag.com e vota il brano che vuoi ascoltare sul cammino di Gigi D'Agostino. E poi anche nella classifica. Dai, dai, dai. Che puoi ascoltare il sabato. Sì, dai, dai, dai. Su M2O. Però. Alle 18. Non ti senti molto bene? Tossisci? Vota il brano che preferisci. Fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone, anche solo per cantare, anche solo per cantare. Vorrei fare una canzone da suonare.

transistor.

quando. Wherever. Love transistor. Many faces, many times around the world, and you didn't know anything about it. Many smiles I see about it in my time, and you didn't know anything about it. Ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è detto, ma la sigla va a sfumare perché devo respirare.